G. Ascolta e completa il testo. Caro professore, sono triste perché il corso è finito. Ora lavoro ogni giorno dalle 9 alle 5, con una piccola pausa per il pranzo. Guardo le cartoline di Viareggio e sogno di tornare. Un abbraccio, Mario.